Sono al telefono con Maurizio Saggion, presidente della Fondazione Italiana Sommelier Emilia Romagna. Buongiorno Maurizio. Buongiorno Bruno, buongiorno agli ascoltatori. Allora, raccontaci un po' in cosa consiste il concorso fotografico e letterario Emilia, le terre, le anime e i corpi. Allora, l'obiettivo del concorso fotografico e narrativo, poi spieghiamo perché ci sono queste due opzioni, è quello di narrare l'Emilia-Romagna delle eccellenze. Abbiamo in questo primo incontro, in questa prima proposta, abbiamo puntato sul vino e sull'olio e sui territori, ma l'obiettivo è sentirsi parte attraverso conti brevi e/o fotografie, provare a sentirsi parte di una storia, provare a raccontare emozioni, provare a raccontare cosa si prova e cosa si sente nel vivere una terra, vivere all'interno delle eccellenze di questo territorio, spesso sottovalutate. Quindi l'idea è che ognuno si senta protagonista di una storia antica e qualitativa, forse nel tempo un po' dimenticata, ma questa terra ha le eccellenze, sia dal punto di vista olivicolo che vitivinicolo. Quindi ecco, essere protagonisti di questo racconto e sentirsi parte di questa storia. Quindi da cosa è nata questa idea e quale messaggio si propone di lasciare, diciamo, a coloro che partecipano? Diciamo che forse siamo noi che ci aspettiamo un messaggio. Il tema è quello di non fermarci semplicemente al bicchiere, che sia di vino o al giro d'olio, e quindi nella parte finale del percorso. È sapere che tutto ciò che è qualità nel bicchiere ha un percorso molto antico e molto faticato, perché sia vino che olio sono il prodotto dell'uomo, quindi è un prodotto umano. Perché c'è un lavoro dietro, c'è un lavoro in campo, c'è un lavoro in frantoio, o c'è un lavoro in vigna, c'è un lavoro in cantina. Quindi non fermarsi semplicemente al bicchiere. Quindi se si ha la capacità di ripercorrere questo processo, quindi rigirando il nastro della storia, ci si rende conto di quanta cultura, quanta storia, quante emozioni ci sono dietro un gusto. Allora, l'idea è farcelo raccontare dagli appassionati, ma non solo di vino e di olio, ma appassionati di fotografia, appassionati di narrativa, appassionati di dialogo, di racconto. Ecco, non fermarsi alla fine della filiera, ma ripercorrere tutto ciò che poi produce eccellenza. In questa terra, come giriamo lo sguardo, abbiamo eccellenza ovunque, dalla Romagna all'Emilia, ognuno con le sue specificità. Io spesso dico che quel trattino Emilia-Romagna non è una separazione, ma è un ponte che lega culture profonde, antiche, che oggi bisogna valorizzare, soprattutto dal punto di vista vitivinicolo e olivicolo. Entriamo nello specifico. In cosa si articola dunque il concorso per gli interessati, dove possono anche trovare informazioni in merito? Allora, il regolamento è possibile trovarlo sul sito, è un po' lungo, e si può partecipare in due modi, o attraverso racconti brevi, immagino 4 pagine. L'idea è di avere più visioni e più voci scritte piuttosto che racconti lunghi che, come posso dire, limitano in qualche modo il numero di partecipanti. Quindi da una parte si può fare lo scritto, però si può e/o, quindi si può scegliere di mandare un racconto e di partecipare con 2 fotografie, quindi ovviamente devono essere centrate sul territorio dell'Emilia Romagna. Uno può anche scriverlo in Piemonte, l'importante è che si parli di Emilia Romagna. Ecco, queste foto nel regolamento c'è scritto anche i pixel, quindi il formato che devono avere. L'obiettivo qual è? Uno è poi alla fine produrre un volume che racconterà le storie di tutti noi nel guardare e nel raccontare le eccellenze dell'Emilia Romagna. Poi provare a costruire una mostra itinerante che valorizzi gli scatti, le fotografie delle persone, quindi girare un po' l'Emilia Romagna inizialmente ed andare a raccontare qualcosa che spesso è sottovalutato, parlare di noi stessi, no? Spesso, soprattutto nel mondo del vino, si fa riferimenti a culture enologiche internazionali e voglio dire, la nostra terra, l'Emilia Romagna, ha delle eccellenze, soprattutto negli ultimi anni. Quindi noi dobbiamo riscoprire la cultura che è quella del nostro territorio e l'idea di andare a vedere e di andare a partecipare prima e poi vedere cosa gli altri hanno raccontato, crea quella comunità del gusto che deve poi sviluppare il gusto per la cultura, quindi cultura del gusto per alimentare il gusto per la cultura. È un percorso che speriamo possa essere interessante, i racconti ne stanno arrivando, vorremmo maggiore partecipazione e quindi un coinvolgimento maggiore. Ma insomma, questo è il primo anno, è come quando uno mette in affinamento il vino, no? Il primo anno c'è bisogno di più anni per trovare qualità. Noi partiamo quest'anno con tutte le difficoltà del caso, ma l'idea è di essere protagonisti nella narrazione, ognuno con le proprie parole. Va bene, Maurizio, ti ringrazio molto e ti auguro Ringrazio buon voi. lavoro.